Capitolo ottavo. Giochi e monellerie. Siccome questo libro non ha un piano prestabilito, tranne quello di descrivere qualche scena della vita di Plumfield per divertire certi piccoli personaggi, in questo capitolo faremo una bella digressione narrando qualche passatempo dei ragazzi della signora Joe. Prego i miei lettori e le mie lettrici di credere che la maggior parte degli incidenti sono tolti dalla vita reale e che proprio i più strani sono i più veri. Perché nessuno, per quanto dotato della più fervida fantasia, può essere capace di inventare nulla di così curioso come i grilli e i capricci che fioriscono nei cervelli svegli dei bambini. Daisy e Demi erano ricchi di fantasia e vivevano in un mondo tutto loro, popolato di esseri belli o grotteschi ai quali davano i nomi più strani e coi quali giocavano ai più strani giochi. Una di queste invenzioni era uno spirito invisibile chiamato il cattivo miciotopo, nel quale essi credettero temendolo e servendolo per molto tempo. Non ne parlavano quasi mai ad altri, celebrando i loro riti il più segretamente possibile, e siccome non avevano mai tentato di dargli una forma definita, nemmeno tra loro, questo essere aveva un vago fascino misterioso, molto gradito ad Amy, appassionato degli elfi e dei folletti. Questo cattivo miciotopo era uno spiritello molto capriccioso e tirannico, e Daisy provava un piacere misto a terrore nel servirlo, obbedendo ciecamente alle sue più assurde richieste, di solito espresse dalle labbra di Demi, che era dotato di una fervida fantasia. Rob e Teddy partecipavano talora a queste cerimonie e le trovavano molto divertenti, sebbene non capissero nemmeno la metà di quanto succedeva. Un giorno, dopo le lezioni, sussurrò all'orecchio della sorellina Demi con un minaccioso cenno del capo. Il miciotopo ci vuole nel pomeriggio. Perché? Chiese ansiosamente Daisy. Per un sacrificio, rispose solennemente Demi. Alle 2 si accenderà un fuoco dietro la grande rupe. Poi dovremo portare tutte le nostre cose più care e bruciarle, aggiunse, accentuando con enfasi terribile le ultime parole. Povera me! Voglio bene più di tutto alle nuove bambole di carta che la zia Amy ha dipinto per me. Devo proprio bruciarle! Esclamò Daisy, che non aveva mai pensato di ribellarsi alle richieste dell'invisibile tiranno. Tutte, fino all'ultima. Io brucerò la mia barca, la mia più bella raccolta di figure e tutti i miei soldati, disse Demi con accento fermo. Basta, sia pure, ma è ben cattivo, sai, miciotopo, a volere proprio le nostre cose più belle, sospirò Daisy. Un sacrificio significa appunto rinunziare a quello che si ama di più, spiegò Demi, al quale la nuova idea era stata suggerita dalla descrizione dei costumi dei greci fatta dallo zio Fritz ai ragazzi più grandi che studiavano la storia di quei tempi. Verrà anche Rob? Chiese Daisy. Sì, e porterà il suo villaggio. È di legno, capisci, e brucerà bene. Faremo un gran falò e vedremo divampare tutto. Questa brillante prospettiva consolò Daisy, che pranzò con le sue bambole di carta disposte in fila davanti a lei come per un banchetto d'addio. Allora fissata, la schiera dei sacrificatori si mise in cammino, ognuno portando i tesori reclamati dall'insaziabile miciotopo. Teddy insistette per accompagnarli e, vedendo che tutti gli altri avevano dei giocattoli, si cacciò sotto un braccio un agnellino che belava e sotto l'altro la vecchia Annabella, senza immaginare neppure lontanamente quale spavento l'idolo gli riservasse. «Dove andate, pulcini cari?» chiese la signora Joe, vedendoli passare davanti alla porta. A giocare vicino alla rupe, permesso? Sì, basta che non vi avviciniate allo stagno e stiate attenti al piccino. Ci bado sempre io, disse Daisy con aria di importanza. Sedetevi tutti attorno e non muovetevi finché non ve lo dico. Questa pietra piatta è un altare e ora vi accenderò sopra il fuoco. Demi procedette allora a suscitare una piccola fiamma, come aveva visto fare i ragazzi più grandi nelle loro merende all'aperto, e quando il fuoco ebbe preso bene, ordinò alla compagnia di fare 3 volte il giro della pietra e disporsi poi in circolo. Comincerò io, e appena sarà bruciata la mia roba, porterete la vostra. Detto ciò, posò solennemente sul rogo un libricino pieno zeppo di figure che gli stesso vi aveva incollate, al quale seguì una barchetta sconquassata e infine gli infelici soldatini di piombo marciarono uno dopo l'altro alla morte. Nessuno esitò o si ritrasse. Dallo splendido capitano rosso e giallo al piccolo tamburino senza gambe. Tutti scomparvero fra le fiamme e si confusero in un comune lago di piombo liquefatto. «Ora a te, Desi», ordinò il gran sacerdote del micio topo, quando le sue ricche offerte furono consumate con gran soddisfazione dei piccoli. «Le mie care bamboline, come posso staccarmene?» gemette Desi, stringendosele sul cuore, tutte 12, con espressione di angoscia materna. «Lo devi!» comandò Demi, e con un bacio d'addio a ciascuna, Desi pose sul rogo le sue splendide bambole. «Lasciamene una sola, questa piccola azzurra! È così cara!» scongiurò la povera mammina, tenendola disperatamente stretta. «Ancora, ancora!» ringhiò una voce terribile. Demi esclamò: «È il micio topo, presto! Deve avere tutto, o ci sgraffierà!» E sulle fiamme cadde la graziosa bambolina azzurra, con le sue gale e il suo cappello rosa, e della gaia schiera non rimase che poca cenere nera. «Metti tutt'attorno le case e gli alberi e lasciali bruciare da sé. Sembrerà un vero incendio», disse Demi, cui piaceva una certa varietà anche nei saccherifici. Incantati da questa idea, i ragazzi disposero il villaggio condannato, misero una fila di carboni lungo la strada principale e poi si sedettero per assistere al divampare dell'incendio. Ci volle un po' di tempo a causa dei colori, ma finalmente una pretenziosa villetta si infiammò, attaccando il fuoco ad una palma che cadde sul tetto di un gran casamento, e pochi minuti dopo tutto il villaggio era in fiamme. Gli abitanti assistettero immobili alla distruzione, da quelle autentiche teste di legno che erano, finché anch'essi presero fuoco e bruciarono senza emettere un grido. Ci volle qualche tempo per ridurre il villaggio in cenere e gli spettatori si godettero immensamente lo spettacolo, salutando con un urrà ogni casa che crollava, danzando come indiani selvaggi quando il campanile divampò e gettando addirittura in mezzo alle fiamme una disgraziata piccola signora rotondetta che aveva cercato scampo nel sobborgo. Il meraviglioso successo di quest'ultima offerta entusiasmò talmente Teddy che buttò il suo agnellino sul rogo. E prima ancora che avesse avuto il tempo di arrostire, piantò sulla pira funebre anche la povera Annabella, che naturalmente non ne fu punto soddisfatta e protestò in modo da spaventare il suo piccolo carnefice. Essendo rivestita di pelle, non prese fuoco, ma peggio ancora si contorse tutta. Prima le gambe si rattrapirono una dopo l'altra in maniera atrocemente umana, poi gettò le braccia sopra la testa come in un'agonia di spasimo. La testa stessa si rovesciò sulle spalle, gli occhi di vetro schizzarono fuori e con un'ultima contorsione di tutto il corpo essa cadde, massa annerita, sulle rovine del villaggio. Questo inaspettato spettacolo sbalordì tutti e spaventò Teddy, che quasi fuori di sé cominciò a strillare, correndo verso casa e invocando a perdifiato: «Mammina! Mammina!» Mamma Baer sentì gli urli e accorse in suo aiuto, ma Teddy non poté che stringersi contro di lei, ciangottando qualcosa a proposito della povera bella e di un gran fuoco e di tutte le bambole bruciate. Temendo qualche disgrazia, la mamma se lo prese in collo e corse sulla scena della tragedia, dove trovò i ciechi adoratori del micio topo gementi sui resti carbonizzati della cara perduta. «Ma che avete combinato? Raccontatemi tutto!» disse la signora Joe, disponendosi ad ascoltare pazientemente, perché i colpevoli apparivano così pentiti che li aveva già perdonati. Con una certa riluttanza, Demi spiegò il loro gioco e la zia Joe rise al punto che le lacrime le scendevano lungo le guance, tanto erano solenni i ragazzi e tanto stravagante l'idea. «Vi credevo troppo ragionevoli per divertirvi in un modo così stupido. Se io avessi un micio topo, sarebbe buono e gli piacerebbero i giochi innocui e piacevoli, senza distruggere nulla e senza prendersi degli spaventi. Guardate lì che rovina, tutte le belle bamboline di Daisy, i soldatini di Demi, il villaggio nuovo di Rob, oltre al povero agnellino di Teddy e alla cara vecchia Annabella. Bisognerà che scriva nella stanza dei giochi i versi che si trovavano una volta nelle scatole dei giocattoli. I bambini olandesi amano fabbricare quel che i bimbi di Boston prendono un gusto a spezzare. Salvo che io sostituirei Plumfield a Boston. Non lo faremo più, mai più, mai più!» gridarono i piccoli colpevoli pentiti e molto confusi per quel rimprovero. «È stato Demi a dircelo», fece Rob. «Ma io avevo sentito lo zio raccontare dei greci che avevano altari e tutto il resto e ho voluto fare come loro. ma non avendo delle creature vive per il sacrificio, abbiamo bruciato i nostri giocattoli. Povera me, è un po' come la storia del fagiolo, disse la zia Jo ridendo di nuovo. Raccontacela, suggerì Daisy per cambiare argomento. C'era una volta una povera donna che aveva 3 o 4 bambini e quando andava al lavoro soleva chiuderli nella sua stanza per essere tranquilla sul conto loro. Un giorno, al momento di uscire, disse: «Badate, bimbi cari, che il fratellino non caschi dalla finestra. Non giocate coi fiammiferi e non vi cacciate i fagioli nel naso». Questo i bambini non si erano mai sognati di farlo, ma la mamma ora gliel'aveva messo in testa e appena fu uscita si riempirono i poveri nasetti di fagioli, tanto per sapere che effetto facesse, e quando ella tornò a casa li trovò tutti in lagrime. Facevano male? Chiese Rob con tale interesse che la mamma si affrettò a fare un'aggiunta opportuna al racconto per evitare una nuova edizione della storia del fagiolo in casa sua. Moltissimo. E io ne so qualcosa perché quando la mia mamma me lo raccontò fui così sciocca che volli provare anch'io e non avendo fagioli mi cacciai nel naso dei sassolini. Non era davvero un piacere e io feci di tutto per levarli subito, ma uno non ne volle sapere di venir fuori. E io mi vergognavo tanto di confessare alla mamma la mia stupidaggine che mi tenni per parecchie ore il sassolino che mi faceva un gran male. Alla fine il dolore divenne così insopportabile che dovetti confessare la verità e siccome nemmeno la mamma riuscì ad estrarlo, si dovette ricorrere al dottore. Mi misero su una sedia tenendomi ben ferma, capisci, Rob, mentre egli si serviva delle sue orribili pinzette, lavorando nel mio naso finché il sassolino saltò fuori. Povera me, che male mi faceva quel mio disgraziato nasetto e come tutti ridevano di me. E la signora Jo scosse il capo sconsolata, come soffrisse troppo al ricordo delle sue pene. Rob parve molto impressionato e sono lieta di dirvi che l'ammonimento non fu vano. Demi propose di seppellire la povera Annabella e nell'interesse che prendeva al funerale, Teddy dimenticò il suo spavento. Daisy si consolò presto perché ebbe dalla zia Amy un'altra infornata di bambole e il perverso miciotopo, apparentemente placato dalle ultime offerte, non li tormentò più. Brop era il nome di un nuovo gioco molto avvincente inventato da Banks. Siccome questo interessante animale non si trova in nessun giardino zoologico, a meno che Duchesne ne abbia portato uno ora dalle foreste vergini dell'Africa, dirò di alcune delle sue caratteristiche a vantaggio degli spiriti avidi di sapere. Il Brop è un quadrupede alato, con volto umano e aspetto giovanile ed allegro. Quando cammina sulla terra grugnisce, quando spicca al volo emette uno strillo acuto e occasionalmente sta in piedi e parla in buon inglese. Il suo corpo di solito è coperto da una sostanza simile a uno scialle, ora rossa, ora blu, di preferenza scozzese e, strano a dirsi, i Brop scambiano spesso la pelle fra di loro. Sulla testa ha un corno che sembra fatto di carta durissima e nera come quella usata dai lampionai. E della stessa sostanza sono le ali che spiega quando vola, senza mai sollevarsi troppo dal suo suolo, perché se tenta dei voli audaci, di solito precipita a terra. Pascola sui prati, ma può anche sedersi e mangiare come uno scoiattolo. Il suo cibo favorito sono le torte coi pinoli. Ma mangia anche le mele e qualche volta, quando i viveri scarseggiano, si contenta di rosicchiare le carote crude. Vive in tane, dove si forma una specie di nido, simile a un cesto da biancheria, nel quale i piccoli broppini giocano finché non siano loro spuntate le ali. Queste curiose bestie, certe volte litigano fra loro. In queste occasioni usano il linguaggio umano, scagliandosi insulti e rimproveri, piangendo e talora strappandosi di dosso corni e pelle e dichiarando fieramente di non voler più giocare. I pochi privilegiati che hanno potuto studiarli sono inclini a crederli o un singolare incrocio di scimmia, sfinge, roc, che è un uccello favoloso della mitologia araba, e delle strane creature viste dal famoso Peter Wilkins, un celebre esploratore antartico. Questo era uno dei giochi prediletti, e i piccoli ingannavano più di un pomeriggio di pioggia fingendo di svolazzare o camminando carponi per la stanza come piccoli pazzi scatenati e giocondi. Certo, era un gioco un po' pericoloso per i vestiti, massimamente per i ginocchi e le gomita. Ma mamma Bayer, mentre metteva toppe e faceva rammendi, si limitava a commentare: Bah, noi facciamo cose altrettanto stupide, ma molto meno innocue. Se potessi trarne tutta la gioia che ne hanno questi cari piccini, vorrei fare anch'io il brop. I divertimenti favoriti di Nat erano lavorare nel suo campicello e sedere sul salice col violino, perché quel nido, fra il verde, rappresentava per lui un mondo incantato e gli piaceva arrampicarvisi a far musica, come un uccelletto felice. I ragazzi lo chiamavano Grillo Canterino perché non faceva che canterellare, fischiare e suonare. E spesso interrompevano il loro lavoro o i giochi per ascoltare le dolci note del violino che sembravano guidare la piccola orchestra dei suoni estivi. Gli uccelli pareva lo considerassero uno dei loro, perché si posavano senza paura sulla siepe o fra i rami per spiarlo coi loro piccoli occhi vivaci. I petti rossi sul melo, vicino, lo trattavano evidentemente da amico, perché il padre dava la caccia agli insetti accanto a lui e la mamma covava le sue uova azzurre con piena fiducia, come se egli non fosse che una nuova specie di merlo, che rallegrasse col suo canto la sua paziente attesa. Il ruscello con la sua acqua bruna chiacchierava luccicando, sotto di lui le api ronzavano sui vicini campi di trifoglio, volti amici si levavano a guardarlo passando. La vecchia casa gli tendeva le grandi braccia ospitali e con una beata sensazione di riposo, di amore e di felicità, Nat sognava per ore nel suo angoletto, inconscio dei salutari miracoli che si operavano in lui. Egli aveva un instancabile ascoltatore che lo considerava più che un semplice compagno di scuola. La cosa più deliziosa per il povero Billy era di stare sdraiato accanto al ruscello, guardando le foglie e i fiocchi di schiuma galleggianti e ascoltando come in sogno la musica che gli giungeva dal salice. Forse Nat gli appariva come una specie di angelo che cantasse lassù in alto, perché qualche memoria dell'infanzia ancora perdurava nel suo cervello e in quei momenti pareva ravvivarsi e farsi più chiara. Vedendo ciò, papà Baer pregò Nat di aiutarlo a dissipare col gentile incanto della sua musica, la nebbia che offuscava quel piccolo cervello. E il fanciullo, lieto di fare qualcosa per dimostrare la sua gratitudine, sorrideva sempre a Billy quando lo seguiva e lo lasciava ascoltare indisturbato i suoni che soli sembravano parlargli una lingua comprensibile. Aiutatevi gli uni con gli altri, era la massima favorita a Plumfield, e Nat imparava quanta dolcezza aggiungesse alla vita, l'applicarla. Il passatempo speciale di Jack Forder era quello di comperare e di vendere, ed egli prometteva di seguire le orme di suo zio, mercante di campagna, che vendeva un po' di tutto e accumulava denaro in fretta. Jack aveva visto mettere la sabbia nello zucchero e l'acqua nello sciroppo, mescolare il lardo col burro e cose analoghe, ed era persuaso che questo fosse parte naturale degli affari. Commerciava in generi vari, ma ritraeva il maggior guadagno dalla vendita dei vermi, pur facendo sempre ottimi affari anche quando trafficava in stringhe, temperini, ami da pesca e ogni altro articolo possibile. I ragazzi, che avevano tutti un soprannome, lo chiamavano Scorticapulce, ma Jack se ne infischiava, dato che la sua vecchia borsa da tabacco, in cui teneva il denaro, diventava sempre più pesante. Aveva anche organizzato delle vendite all'asta e ogni tanto smerciava tutte le cianfrusaglie che aveva raccolte o aiutava i ragazzi a far baratti. Si faceva dare mazze, palle, magli e via dicendo a poco prezzo da una squadra, li rimetteva a nuovo e li rivendeva guadagnandoci su a un'altra squadra, estendendo spesso la cerchia dei suoi affari oltre i cancelli di Plumfield, nonostante l'espresso divieto. Papa Baer dovette proibire alcune delle sue speculazioni e cercò di dargli un'idea più corretta del senso degli affari, spiegandogli che non consiste nell'abilità di raggirare il prossimo. Ogni tanto Jack faceva una speculazione sbagliata e se ne affliggeva più di ogni successo nello studio o di una cattiva nota in condotta, ma non tardava a prendersi la rivincita sul primo cliente che gli capitasse a tiro. Il suo libro dei conti era una vera curiosità e la sua sveltezza con le cifre era davvero singolare. Di questo papà Baer lo lodava, ma cercava di sviluppare parallelamente in lui il senso dell'onestà e della correttezza, e col tempo Quando Jack capì di non poter riuscire senza questa virtù, riconobbe che il suo maestro aveva ragione. I ragazzi, naturalmente, giocavano anche al cricket e al football, ma dopo gli eccitanti resoconti di questi giochi dati nell'immortale Tom Brown at rugby, una debole penna femminile non può far altro che alludervi rispettosamente. Emil passava le ore libere sul fiume o sullo stagno, allenando i compagni più grandi a una regata in gara con certi ragazzi della città, che ogni tanto invadevano il loro territorio. La regata ebbe infatti luogo, ma siccome finì in un naufragio generale, non se ne parlò in pubblico. Il commodoro pensò seriamente a ritirarsi in un'isola deserta. Tanto disgusto gli ispirò per qualche tempo il genere umano. Ma poiché nessuna isola deserta gli conveniva, fu obbligato a restare fra i suoi amici e a consolarsi fabbricando una darsena. Le ragazzine preferivano i giochi soliti della loro età, modificandoli secondo i suggerimenti della loro vivace fantasia. Il gioco più in voga era chiamato la signora Shakespeare Smith. Il nome era stato trovato dalla zia Jo, ma le dure prove che subiva la povera signora erano assolutamente originali. Daisy era la signora Shakespeare Smith e Nan, secondo i casi, sua figlia o una vicina, la signora Sventatelli. Nessuna penna può descrivere le avventure di queste signore, perché entro lo spazio di un breve pomeriggio le loro famiglie erano teatro di nascite, matrimoni, morti, inondazioni, terremoti, ricevimenti e ascensioni aerostatiche. Queste energiche donne viaggiavano per milioni di chilometri, portavano vestiti e cappelli mai visti prima da occhi umani, si arrampicavano sul letto divorando le tappe con focosi destrieri e saltando su e giù fino a farsi girare la testa. I guai favoriti erano gli svenimenti e gli incendi, con un generale massacro ogni tanto per amore di varietà. Nan non si stancava mai di inventare nuove combinazioni e Daisy la secondava con cieca ammirazione. Il povero Teddy era spesso la loro vittima e più di una volta dovette essere salvato da un vero pericolo perché le dame, nel loro entusiasmo, dimenticavano facilmente che non era fatto della stessa stoffa delle loro resistentissime bambole. Una volta fu chiuso in una tetra prigione rappresentata da un armadio e quivi dimenticato dalle ragazze che corsero fuori a giocare all'aria aperta. Un'altra volta per poco non affogò nella vasca da bagno dove rappresentava la parte di uno scaltro balenottero. E peggio ancora, una volta arrivarono appena in tempo a tagliare la fune con cui l'avevano impiccato come ladro. Ma l'istituzione che godeva i maggiori favori era il club. Non aveva altro nome, non ce n'era bisogno perché era l'unico esistente nelle vicinanze. Fondato dai più grandi, anche i piccoli vi erano occasionalmente ammessi purché si comportassero bene. Tommy ed Amy erano soci onorari, ma dovevano sempre ritirarsi presto, con vivo rammarico, a causa di circostanze indipendenti dalla loro volontà. I sistemi di questo club erano alquanto singolari, perché i membri si riunivano in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora, compivano le più strane cerimonie, si davano i più strani passatempi e ogni tanto il club veniva tempestosamente sciolto per essere poi ristabilito su basi più salde. Le sere di pioggia i membri si riunivano nella scuola e passavano il tempo giocando a scacchi, a tavola reale, al domino, tirando di scherma, recitando, discutendo o dando rappresentazioni drammatiche di natura atrocemente tragica. Nell'estate il luogo di ritrovo era il capannone e solo gli iniziati sapevano quello che vi accadeva. Nei pomeriggi afosi il club si recava al ruscello per esercizi acquatici e i membri si sparpagliavano sulle rive, vestiti di indumenti leggerissimi come tanti ranocchi al fresco. In tali occasioni i discorsi acquistavano un'insolita eloquenza, addirittura fluenti per così dire, e se le osservazioni di qualche oratore spiacevano all'uditorio, gli rovesciavano addosso dell'acqua fredda finché il suo ardore fosse spento. Franz era il presidente e manteneva l'ordine in modo ammirabile, tenuto conto della natura indisciplinata dei soci. Papà Baer non si mischiava mai nei loro affari e questa saggia tolleranza veniva ricompensata di quando in quando con l'invito alle più misteriose riunioni, il che pareva divertirlo molto. Appena arrivata, Nan chiese subito di essere ammessa al club, provocando una grande eccitazione e pareri diversi fra i giovani signori. Presentò infinite petizioni, scritte e orali, disturbando i loro riti solenni col lanciare insulti attraverso il buco della serratura, cantando a gola spiegata degli assolo davanti alla porta e scrivendo osservazioni derisorie sulle pareti e sulla palizzata, poiché essa apparteneva alle irriducibili. Riusciti vani questi appelli, le ragazze, per consiglio della signora Jo, fondarono un loro club che chiamarono Club del Benessere e a quale invitarono magnanimamente quei gentiluomini che per la loro tenera età erano esclusi dall'altro, intrattenendoli così bene con cenette, nuovi giochi inventati da Nan e altri piacevoli spassi, che uno dopo l'altro i ragazzi più grandi confessarono il loro desiderio di essere ammessi a quei divertimenti più eleganti, finché, dopo molte discussioni, fu deciso di proporre uno scambio di cortesie. I membri del Club del Benessere furono invitati a onorare della loro presenza in certe sere l'istituzione rivale e, con grande sorpresa dei giovani gentiluomini, la loro presenza non rappresentò affatto un impiccio, né per le conversazioni né per i giochi dei frequentatori regolari, il che, io credo, non si potrebbe dire di tutti i club. Le signore risposero con garbo ospitale a questi pacifici approcci e i due club fiorirono a lungo e felicemente.